Station present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavner. Voi state ascoltando Tam Tam Europe, pillole di rock e oltre che vanno in onda quattro volte al giorno. La nostra redazione di Londra ci racconta che Courtney Love, la moglie di Kurt Cobain, ha attaccato a Dave Grohl, l'ex batterista dei Nirvana ed attuale cantante dei Foo Fighters, dicendo che Kurt lo odiava a pelle e che Grohl gli ha girato le spalle quando Kurt aveva più bisogno di lui. E questa non è l'unica notizia su Dave Grohl, che è stato arrestato in Australia per essere ubriaco mentre guidava la macchina. Non so se avete visto il video del singolo Learn to Fly quando lui porta l'aereo. Spero che non beccare lui come pilota durante il mio prossimo viaggio a Londra. Se ci volete segnalare gruppo da ascoltare, chiamateci al 081 790 14 11 o inviate un messaggio al 0348 24 38 888. Vi lasciamo con The Foo Fighters e Learn to Fly da Tam Tam Europe e Fergal Kavner. Ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. Simpaticissimi, di conseguenza anche la nostra attiva redazione di Londra. È veramente una cosa eccezionale sapere che comunque tipo interagiamo in questo modo. Allora, noi facciamo una piccolissimissima pausa, torniamo tra poco, ci sarà la consegna del bacio, per cui ci collegheremo con i nostri agenti Laro 007 11008 per baci in tour. SPOT Spot present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello there, this is Fergal Kavanagh on Tam Tam Europe on Radio Tour, the moving station, bringing you the best news and oltre dalla nostra redazione di Londra. Allora, cosa si fa quando un componente di un gruppo decide di andarsene? Di solito è semplicissimo. Per un bassista si prende un'altra bassista o una chitarrista, come nel caso del Suede. Magari vi ricordate che Bernard Butler è stato sostituito da Richard Oakes qualche anno fa e continuano ad avere successo. Però quando se ne va il cantante è un altro discorso. Come cambiare la voce, la parte più significativa di un gruppo? Ultimamente vediamo i Genesis e Marillion che continuano a registrare con un vocalist nuovo. Succede anche qui in Italia, dove nel Delta V la nuova cantante è Lou Heredia, che ha preso il posto di Francesca Touré. Su Tam Tam Europe adesso vi facciamo sentire il Delta V e vi ricordiamo che per segnalarci gruppi da ascoltare ci potete chiamare al 081 790 14 11 o inviare un messaggio al 0348 24 38 888. Do Fergal Kavanagh con Delta V e sul filo, alla prossima. Tam Tam Europe. Delta V sul filo su Radio Tour The Moving Station. A termine di questo appuntamento con Tantam Europe, che tornerà naturalmente anche nel corso della serata, restate sintonizzati per le vostre curiosità. Un ringraziamento alla nostra redazione di Londra, in particolare a Fergal Cavana, che ha curato per noi quest'altra pillola. Ci prendiamo una piccola pausa. Radio Tour The Moving Station present Tantam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Cavana bringing you the best news in rock e non solo sul Tantam Europe. Quattro pillole al giorno preparate dalla nostra redazione di Londra su Radio Tour The Moving Station. Andiamo verso il centro politico dell'Europa, in Belgio, dove troviamo gli Hooverphonic, diventati famosi grazie al film di Bernardo Bertolucci Io ballo da sola, con il pezzo Tricky. Dicono di essere stati influenzati molto dal francese Serge Gainsbourg e che la vocalist assomiglia al vecchio partner di Gainsbourg, Jane Birkin. Il pezzo che vi proponiamo è un musical exercise based on an Isaac Hayes sample e è cantato da Le Jeu Sardonnais, excusez-moi mon Flemish, che è stato poi sostituito dal 18enne Jake Arnaut. If you want to call us here on Tam Tam Europe, the number is 081 790 1411, or send a message to 0348 2438 888. Dalla nostra redazione di Londra e da Fergal Cavana vi lascio con gli Hooverphonic e Twicky. Alla prossima Tam Tam Europe. Sapere che Hooverphonic sono stati praticamente la colonna sonora delle mie feste, le mie vacanze di Natale 1999-2000, e ascoltare questo genere di musicalità in montagna, in automobile, con un bel po' di neve fuori, è veramente spettacolare. Grazie alla nostra redazione di Londra, in particolare a Fergal, che risentiremo domani in un altro appuntamento con le vostre Daily Dogs of Rock. S-P-O-T Spot Radio Tour, the moving station. Station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello again, this is Fergal Kavanagh with Tam Tam Europe, la vostra pelle di rock e altro, preparate dalla nostra redazione di Londra. Allora, parliamo degli Skunk Anansie, che hanno programmato un concerto a Napoli il prossimo 10 aprile. La cantante Skin, invece, è già venuta in Italia ultimamente a Milano col musical Rent. Lei ha infatti cantato un pezzo che nel disco originale è stato interpretato da Stevie Wonder, si intitola Seasons of Love, ed è stato eseguito in italiano da Skin. Magari lo suoneranno a Napoli, staremo a vedere. E chissà se Skin è riuscito ad andare sulla pista in nevate per fare il snowboard, che dichiara essere una sua passione. Dice che le piace il flusso dell'adrenalina e il pericolo, proprio come lei. Su Tam Tam Europe vi ricordo il nostro sito internet www.radiotour.it e vi saluto con Skunk Anansie, il primo singolo dell'ultimo album Carlo Grande Patato, Charlie Big Potato. Alla prossima! Tam Tam Europe. Ci sarà anche la consegna del bacio in tour. S-P-O-T. Spot. Radio Tour, the movie station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe, messo in onda 4 volte al giorno in Radio Tour, the moving station. Allora, siamo proprio a Napoli, dove troviamo una storia musicale conosciuta in tutto il mondo. Perfino Elvis Presley ha registrato un canzone napoletano, It's Now or Never, o Il Sole Mio. Nel 2000 vediamo un sviluppo musicale forte, diversissimo dai tempi di Elvis Presley, però sempre in grado di farci ballare. Il gruppo napoletano più significativo del momento ha lavorato con i Massive Attack e con Left Field, e infatti ha chiamato il nuovo album 4-4. Of course I'm talking about Alma Magretta, e spiego Rights che il 4-4 è il tempo che ha maggiore attinenza con il ballo, ma dice anche che il 4-4 può essere letto come un 4 su 4. Noi siamo un 4 e questo è il nostro quarto album. Semplificando la frazione viene fuori 1, un messaggio e un sintesi di unità. Allora, con queste parole siamo sicuri che gli Alma Magretta ci faranno ballare per molti anni nel futuro. Questo è tutto per ora, se mi volete mandare un'email segnate questo indirizzo fergal@radiotour.it. Da Tam Tam Europe, nostra redazione di Londra, e da Fergal Kavanagh vi saluto con Alma Magretta ed Alta Fedeltà. Alla prossima! Tam Tam Europe. Greta Alta Fedeltà, un ringraziamento alla nostra redazione di Londra e a Fergal che ha curato per noi quest'altra pillola di Tantam Europe, la vostra dose quotidiana di rock che potete trovare anche più tardi su Radio Tour The Moving Station e poi durante il corso della settimana per un totale di 4 pillole al giorno. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo. S-P-O-T, Spot. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe, pillole di rock messo in onda 4 volte al giorno on Radio Tour The Moving Station. Allora, il mondo rock è aspettato con ansia un nuovo album degli Oasis, un disco molto importante per loro. Però qua a Tam Tam Europe abbiamo sempre creduto che l'unico capolavoro degli Oasis è stato Definitely Maybe, il loro primo album nel 94. Che soddisfazione allora sentire Noel Gallagher, il leader degli Oasis, dire che gli ultimi due album were uninspired, just treading water, letteralmente tradotto calpestrare sull'acqua, cioè non si sono sforzati di fare passi in avanti, ma riferendosi a Definitely Maybe, almeno so che abbiamo fatto un album bello. Queste sono le parole di Noel Gallagher, creatore dell'attesissimo nuovo album degli Oasis, Standing on the Shoulder of Giants. Ma voi che ne pensate? Vi ricordo il nostro indirizzo email per segnalarci brani o gruppo da ascoltare in Tam Tam Europe, fergal@radiotour.it. Do Tam Tam Europe, nostra redazione di Londra, e do Fergal Kavanagh, The Oasis, con Go Let It Out. Tam Tam Europe. Ain't no illusion, try to click with what you got. Taste every potion, cause if you like yourself a lot, go let it out, go let it in, and go let it out. Life is precocious in the most peculiar way. Sister psychosis, don't got a lot to say. She gon' let it out. un'ora di rock grazie alla nostra redazione in Inghilterra, a Londra e a Fergal, che ci hanno condotti per mano attraverso quest'altro appuntamento con Tantam Europe. 4 pillole al giorno, 4 dosi di rock che potete ascoltare solo sulla Radio Moving, sulla Radio Tour The Moving Station. Io sono Luca, c'è Gino Palumbo in regia, andremo avanti fino a mezzanotte con il Cerca Persone e poi Live on the Mix con Jackie per lo speciale Radio Tour The Moving Station. Present Tantam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and welcome to Tantam Europe, la vostra pillola di rock e oltre in onda 4 volte al giorno on Radio Tour The Moving Station. Allora, vi abbiamo già parlato del polemica in casa degli Smashing Pumpkins, che la bassista Darcy Redsky se n'è andata, ma adesso che farà? Sembra che non avrà difficoltà, infatti prima di lasciare i Pumpkins aveva già fatto l'ospite di onore nell'ultimo disco dei Filter, un gruppo americano di Chicago. L'album si intitola Filter, title of record, e il cantante dei Filter, Richard Patrick, ha promesso un disco molto vario, e cioè brani con chitarre esplosive, canzoni acustiche, robe tecnico, cose industriali e addirittura passaggi sinfonici. Allora, senz'altro Darcy delle Smashing Pumpkins si è trovato a suo agio. Da Tantam Europe questo è tutto per il momento, vi invito a visitare il nostro website www.radiotour.it. Da Fergal Kavanagh è tutto, questo sono i Filter con Take a Picture, alla prossima. Tantam Europe. Sottofondo c'è Danny Fulcher con Take a Picture alle 17:17 minuti. Facciamo una piccola pausa e tra poco ci sarà la consegna del bacio in tour. Radio Tour The Moving Station. Present Tantam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Voi state ascoltando Tantam Europe, pillole di rock e altro che vanno in onda 4 volte al giorno. E nel mondo di rock e dei videogames si incontrano con molti artisti che contribuiscono brani musicali per un videogame o l'altro. David Bowie ha appena dato la musica ad un videogame in cui appaiono lui stesso e la moglie Iman, mentre sia Megadeth che Wu-Tang Clan stanno lavorando su delle collaborazioni. Ma noi su Tantam Europe vogliamo farvi sentire i Propeller Heads, che hanno dato un pezzo al videogame Wipeout 3 dalla PlayStation. Non c'è solo loro nella musica del gioco, ma ci sono anche i Chemical Brothers, Underworld e Orbital, mentre il progetto è stato prodotto e remixato dal DJ Sasha. Da Tantam Europe questo è tutto per il momento, e se ci volete scrivere o proporre brano e gruppo da ascoltare, l'indirizzo è fergal@radiotour.it. Vi lascio con i Propeller Heads e Crash. Ciao, alla prossima. Tantam Europe. questo pomeriggio abbiamo incontrato le sonorità e il continuo cambiamento e movimento di Anouk in Tantam Europe. Adesso ci siamo ritrovati con questo pezzo di Propeller Heads che si intitola Crush. Sono di Tour The Moving Station. Un ringraziamento alla nostra redazione di Londra, al bellissimo e gettonatissimo Fergal. Se volete vederlo, ragazze, ve lo meritate. Fate un salto nel nostro sito www.radiotour.it e vedrete che non resisterete alla tentazione di mandare a lui un'email. Fergal@radiotour.it. SPOT. Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh bringing you the best news in rock and non solo sul Tam Tam Europe. Quattro pillole al giorno sono preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. Allora, siamo in Italia e parliamo dei Subsonica, che hanno fatto il salto dai centri sociali al teatro Ariston, essendo tra i 16 big scelti per Sanremo. I fan hanno mandato tantissimi messaggi al loro sito, cioè www.subsonica.it, dicendo che si sono venduti, ma giustamente il cantante Max Casasci risponde che ci vanno per ottenere una promozione televisiva che l'etichetta indipendente con cui lavorano non si sarebbe mai potuto promettere. Chiede anche se si sono venduti per comprare cosa. A Sanremo col brano Tutti i miei spagli, sul Tam Tam Europe vi facciamo sentire Lasciati. Per il momento vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.radiotour.it. Do Fergal Kavanagh, questo è Lasciati dai Subsonica. Alla prossima! Tam Tam Europe. D'uscita. Momenti che si perdono così, un libro aperto quando viene il buio e noi colpevoli di troppa aridità. Lasciati guardare un po' più fondo finché si può, senti come tremo perché sento finisce qui. Lasciati guardare un po' più a fondo su che si può. Un ultimo saluto al nostro tempo e tutto finisce qui. Dopo aver ascoltato anche Fergal e la nostra redazione di Londra, noi lo ringraziamo. Intanto facciamo una piccolissimissima pausa e tra poco ci sarà la consegna del bacio in tour. SPOT. Spot. Radio 2, the moving station. Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Cavanaugh and this is Tam Tam Europe. In questo pillole che vanno in onda quattro volte al giorno vi raccontiamo tutti i fatti più interessanti del mondo. Oggi guardiamo un po' al cinema e al nuovo film che sta girando Nicole Kidman. Si intitola Moulin Rouge e dovrebbe uscire l'anno prossimo. Questo almeno se riescono a finire di girarlo. La produzione è stata fermata ben tre volte. La prima due volte perché Kidman ha fratturato le sue costatole quando è caduta. Adesso il problema è un gatto che doveva essere dipinto dall'artista Toulouse-Lautrec sul grande schermo. È stato trovato morto, forse dopo una siringa di tranquillante. Che problemi che hanno in America, soprattutto a Hollywood. Perciò abbiamo scelto un pezzo adatto per voi su Tam Tam Europe. Questo è tutto per ora. Per ora, se mi volete mandare un'email, segnate questo indirizzo fergal@radiotour.it. Vi lascio con la Negrita e Hollywood. Alla prossima. Tam Tam Europe. Vado a camminare solo, sui marciapiedi io volo. Sono straniero nella mia città. La gente passa, mi vede e lo sa. Mi fermo, poi riparto, poi mi fermo. Ancora osservo la strada che si colora. C'è una faccia in vetrina, mi guarda e va via. Chi è lo straniero a casa mia, casa mia. Vent'anni che lì e mi dice, qui va bene così, tanto tutto è troppo, basta quel che hai, e forse un giorno lo capirai, ma te che ne sai, ma che cazzo sei però, so che ha ragione lui, perché lui è un matto autentico, e io troppo spesso mi dimentico che qui. We'll be right back. fine grida su Radio Tour The Moving Station in un'altra pillola di Tantam Europe. Ce ne sono quattro ogni giorno, le vostre dosi quotidiane di rock che potete ascoltare su Radio Tour The Moving Station grazie alla nostra redazione di Londra e a Fergal. Intanto i vostri messaggi: il Giovi ti amo by Kick, e ancora mi dovete sopportare ancora per poco il fatto che io amo la musica e l'amore della mia vita, firmato Pat. Sta tranquilla Pat, in ogni caso speriamo di seguirti anche nella capitale. Ci prendiamo una piccolissima pausa, ci risentiamo tra poco con il nostro gioco.